Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre per parlare oggi di debiti e di crediti. L'Adico ha proprio uno sportello a questo dedicato, sportello che è seguito dall'avvocato Gioia Barbato al telefono con noi. Bentrovata. Ciao Mirko, saluto a tutti. Dunque, i debiti sono sempre di più e spesso non si riescono a pagare. I crediti di solito sono quelli della pubblica amministrazione o di chi avanza appunto i soldi. Cosa puoi dirci? Esatto, allora innanzitutto è indispensabile partire da un dato molto rilevante, perché dal 2010 ad oggi nel Adico abbiamo riscontrato che c'è stato un aumento dei debiti degli italiani di circa il 50%, e il dato ancora più sconcertante è che queste posizioni debitorie non riguardano più solo i privati, ma anche gli imprenditori, ovvero tutti coloro che insomma lavorano con partita IVA, che notoriamente sono poi quelle persone, almeno un tempo, quelle persone che economicamente erano anche più avvantaggiate rispetto agli altri. E in realtà poi oggi volevo portare anche a conoscenza degli italiani un caso molto rilevante che abbiamo trattato negli ultimi giorni, che riguarda una posizione debitoria nei confronti di un ente di riscossione molto noto, che è Equitalia, poiché abbiamo avuto in associazione una socia che ci ha chiesto aiuto, perché ha ricevuto un'intimazione di pagamento da parte dell'agente di riscossione di 9.000 euro con contestuale fermo amministrativo dell'auto. La socia ha cercato in tutti i modi personalmente di venire ad una soluzione transattiva con l'ente esecutore, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Tramite il nostro aiuto è riuscita ad ottenere innanzitutto un piano di rientro a rate e è riuscita a svincolare quello che era svincolare il fermo amministrativo, proprio perché noi di Adico abbiamo fatto leva sul fatto che l'autovettura serviva all'utente per lavorare in mancanza di lavoro, quindi in mancanza di forza lavoro non c'era poi neanche la possibilità per la stessa di corrispondere insomma al dovuto. E quindi è riuscita almeno a riprendersi l'auto, a poterla utilizzare, altrimenti davvero sarebbe stato paradossale, insomma, chiederti dei soldi, però non metterti nemmeno nelle condizioni di guadagnarti lo stipendio o un introito per poi far fronte appunto ai debiti che andavano pagati. Rateizzazione, dicevi che almeno per una parte si è riusciti a ottenerla. Sì, esatto, perché preme precisare anche questo fatto qui, che molte volte l'agente esecutore giustamente opera il suo protocollo interno, quindi c'è una legge generale e molte volte una persona che si reca allo sportello si trova davanti a una persona che applica automaticamente quella che è la legge, quello che è il protocollo interno di quella struttura. In realtà noi siamo riusciti a fissare un incontro con un dirigente e facendo presente quelle che erano le condizioni concrete dell'utente, quindi quelle condizioni personali, siamo riusciti a individuare un piano di rientro su tutto l'importo, quindi su tutti i 9.000 euro, quindi permettendo anche quello che era lo svincolo, come anticipavo prima, del fermo, ecco. Chissà quanto dovrebbe rateizzare Maradona se è vero che ha dei debiti con il fisco, visto che se ne è parlato tanto in questi giorni. Qualche considerazione generale, avvocato, su chi sono sempre di più appunto le persone, voi stessi lo verificate, che si vedono arrivare queste cartelle, perché i debiti alla fine ci sono, si accumulano ma poi vanno pagati, ma accumulandosi c'è il rischio di riuscire sempre meno a farvi fronte. Che consigli possiamo dare? Allora, guarda, il primo consiglio che diamo al debitore è quello di, una volta ricevuto un'intimazione di pagamento, sicuramente quella di rispondere con una lettera raccomandata, e anche se il debitore si trova temporaneamente nella situazione economica di non poter fronteggiare l'intero importo rivendicato, chiedere una soluzione in via transattiva anche a piccole rate, tanto per insomma far vedere la disponibilità di voler fronteggiare quella che è la posizione debitoria. Un consiglio invece anche per chi si trova nella posizione inversa, ovvero per il creditore: ricordiamo a tutti coloro che dovessero trovare in una posizione creditoria che il primo passo da fare è quello di inviare una lettera di messa in mora, ovvero una lettera di sfida dove si intima al debitore un termine per adempiere, e si avverte già il debitore stesso anche in difetto, quindi nel caso di mancato rispetto del pagamento nel termine indicato, il creditore ha possibilità di agire con un ricorso per decreto ingiuntivo o con il procedimento di cognizione ordinario, quindi di adire insomma le sedi giudiziali. Ecco, noi di Adico siamo a disposizione innanzitutto ovviamente per tutelare i debitori, ma anche per comunque offrire tutto il supporto legale per anche i creditori, che anche loro comunque hanno poi necessità di farsi giustizia. E ricordiamo l'indirizzo di Adico, che è Mestre, via Volturno numero 33, e ricordiamo anche l'indirizzo mail, che è info@associazionedichesaconsumatori.it. Insomma, due facce della stessa medaglia: chi avanza soldi, chi invece li deve dare. Entrambi hanno diritto ad una giusta ed equa soluzione. Grazie all'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale di Adico, alla prossima. Grazie a te, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.